Me ne vado. Aspettami. Ti prego, fidati di me. E perché? Perché quello che c'è là fuori già lo conosci. È come quella strada. Sai esattamente dove porta. E io so che non è qui che tu vuoi stare. M3 Blanca 2012. E non è questa la vita che vogliamo. No, voglio un'altra vita. Senti, nella vita che voglio la mia donna a fianco a me. Se ogni sera la guardo e le dico buonanotte, passo intere giornate e nottate con lei. Se non come adesso che vedo più i miei colleghi di lei. E nella vita che voglio i miei non lavorano più. Liberi. Sono ricchi se la godono e non soffrono più. Mai ma prima al loro capo faccio visita. Faccio in modo che necessiti una visita. L'ospedale. E nella vita che voglio vivo di note e vibrazioni. E vi regalo sensazioni che diventano emozioni. E mi pagano per vivere dentro a un sogno. Wow. Per comprare cose di cui non ho bisogno. E nella vita che voglio uso penna e foglio. Per riempirmi il cuore e anche il portafoglio. Per parlare della mia gente pieno d'orgoglio. Se. Per portar loro fortuna come un quadrifoglio. Oh. I colori di una farfalla aprono una falla. Nella mia vita che fatica a stare a galla. Il mondo non è bianco o nero, è grigio. E passi il tempo a cercarne i colori in ufficio. Le lancette ruotano nel mio cuore. Nella vita che voglio il sole sorge ogni giorno. Ma io zero gazzella, quindi oggi non corro. Nella vita che voglio passo più tempo con i miei cari. Ci tengo a rafforzare i miei legami. Nella vita che voglio la politica del giorno. E pensare solamente al proprio tornaconto. E non mi importa se l'Italia va a puttane. Quando ho avuto un premier che in 3 anni è andato sempre a troie. Nella vita che voglio ci si fa il culo ogni giorno. Esclusivamente per realizzare un sogno. E nella vita che voglio Roma zero capitale. E Blanca da Milano a comandare. Nella vita che voglio c'è più rispetto per i cani. Un po' meno per i politici italiani. Nella vita che voglio io non sono mai stanco. Ho sete di sangue, sono un capo branco. Conosciuta quanto D'Artagnan negli altri 3. Oh. E da Milano a Gerusalemme. Sì. Tutti sanno che prima del 3 c'è la M. M3 da MI, diverso dai rapper ridicoli. Oh. Che si fingono grandi ma sono piccoli. Buffoni. Io non fingo come loro di arrivare dal ghetto. Non ho bisogno di ste cose per avere nella rispetto. Vita che voglio, faccio quello che voglio. Sì. Arrivo davanti al destino, ormai spoglio di paure con un foglio in cui raccolgo un convoglio di emozioni e tutto il mio cordoglio. Oh. E non mi limiterò a fantasticare. No. Mi impegnerò a rendere reale. Vedrai. La vita che voglio e che sto a immaginare. Sì. E che voi stronzi volete schiacciare. Oh. I colori di una farfalla aprono una falla. Nella mia vita che fatica a stare a galla. Il mondo non è bianco o nero, è grigio. E passi il tempo a cercarne i colori in ufficio. Le lancette ruotano nel mio cuore. E io qui ti sangua ore. Un giorno alla volta. Stillicidio. È colpa di qualcuno questo genocidio. Se prima era un sogno ora è necessità. Sì. Quel che ora desidero poi si avvererà. Tutto. Ho giurato ed ho guardato dentro gli occhi vostri. Lo non sai. Posso darla vinta a tutti questi mostri. No. Il mio pregio e il mio difetto è aver la testa dura. Oh. E anche se ciò non basta togliere la paura. Io continuo e non mi arrendo contro l'incubo orrendo di fallire nel mio piano. Lo guardo negli occhi e non mi vendo. Yeah. Io vendo la mia anima ogni giorno che mi ritrovo a vivere una vita non mia. E il cuore batte lo stesso ma l'anima non respira. No. La quotidianità mi soffoca con tutta la sua ira. Oh. E voi sceriffi con la stella sul petto. Porci. E noi un po' tristi ma con una stella nel petto. Sì. E tanto caos per farla danzare. Tanto. E tanti sogni da realizzare. I colori di una farfalla aprono una falla. Nella mia vita che fatica a stare a galla. Il mondo non è bianco o nero, è grigio. E passi il tempo a cercarne i colori in ufficio. Le lancette ruotano nel mio cuore. E io qui ti sangua ore. Un giorno alla volta. Stillicidio. E voi? Che vita volete? Siete felici?